le lacrime di marzo che ora tu piangi per me mi fa sentire grande ed importante più di un re. Mi piace dirti cose per le quali soffrirai, coprirti di bugie e di cattiverie che tu accetterai. Le lacrime di aprile sono musica per me, le cerco in tutti i luoghi e poi le trovo su da te. Ed io ti spezzo il cuore, tanto so che resterai ad aspettare me per tutti i giorni che per me vivrai. Le lacrime di maggio già non le capisco più, però io sono in piedi ed in ginocchio ci sei tu. A volte vorrei dirti che sto bene insieme a te, ma ho tanto di quel tempo perché tu non vivi senza me. Ti sei uccisa ieri, non ce la facevi più. Le lacrime di giugno almeno non le piangi più. Io giro per il mondo a raccontare a chi non sa che il cielo a marzo è azzurro e che non piange.